297. Bue alla moda. Questo piatto va trattato poco diversamente da quello del numero 294. Prendete non meno di un chilogrammo di magro della coscia o del culaccio di bestia grossa e steccatelo con lardelli grossi un dito di buon lardone che avrete involtati nel sale e nel pepe. Legate il pezzo della carne perché prenda una bella forma, salatelo a sufficienza e ponetelo in una cazzaruola con grammi 50 di burro per rosolarlo, poi aggiungete gli ingredienti qui appresso, mezza zampa di vitella di latte oppure un pezzo di zampa di vitella grossa, una grossa cipolla intera, due o tre carote intere, un mazzetto legato di erbe odorose come prezzemolo, sedano, basilico e simili, alcune cotenne di lardone, un bicchiere ardito d'acqua, o meglio un bicchiere di brodo digrassato, e per ultimo mezzo bicchiere di vino bianco, oppure due cucchiaiate di acquavite. Mettete al fuoco la cazzaruola ben coperta e fate bollire adagio finché la carne sia cotta. Ma le carote, cuocendosi per le prime, levatele onde restino intere. Gettate via il mazzetto odoroso, poi passate il sugo e digrassatelo se occorre. Servite la carne non troppo cotta unitamente alla zampa e contornate il piatto con le carote tagliate a fette rotonde. Se vi riesce bene, sentirete un umido delicato e leggero. Alcuni steccano la cipolla con chiodi di garofano, ma questo aroma non è da consigliarsi che agli stomachi forti. Meglio delle carote, giudico il contorno di fagioli sgranati cotti e rifatti nel sugo di bue.